fa l'upgrade in un anno, quindi una volta alla settimana loro hanno una specie di treno, lo chiamano, fa il treno dell'upgrade. A me è piaciuta molto questa cosa. Ci sono almeno 7-8 modelli diversi di erogazione dell'applicazione software, di cui occorre tenere conto oggi. Naturalmente ci sono quelli tradizionali, naturalmente ci sono quelli che evolvono dalla modalità tradizionale, ci sono quelli ibridi che mettono insieme le cose tradizionali con quelle nuove, ci sono quelli particolarmente innovativi. Io ho chiesto alle aziende che sono qua oggi di entrare nel merito di questo, di vedere e di farci capire un po' come evolve questo discorso dell'erogazione e del modello infrastrutturale che sta sotto. Infine, tanto per darvi un flash su delle parole chiave, parliamo di private computing, parliamo di public computing, parliamo di federazione di nuvole, parliamo di tante cose. Io ho solo messo nell'angolo di là la classica piramide dello stack dell'IT, semplicemente per dire che oggi coesistono in maniera molto consistente servizi applicativi e applicazioni in cloud computing insieme a quelle tradizionali nelle classiche aree dell'infrastruttura, della piattaforma, dell'applicazione e anche del processo. Chi chiama business process outsourcing e lo mette in cloud dovrebbe fare qualche sforzettino in più per differenziarlo dall'offerta precedente. Lasciatemelo dire, perché se no non ne vedo il vantaggio. Ho tirato in ballo uno di 3.000 e passa anni fa, non l'ho tradotto io dal greco, ma guardo bene. Questo signore diceva che per trovare, come dire, lo spirito bisogna elevarsi, astrarsi e salire, lo faceva dire a Socrate, salire nelle nuvole. Io credo invece che occorra fare oggi un esercizio molto pragmatico di affrontare il problema del cloud computing, l'opportunità del cloud computing in maniera molto concreta e molto realistica, andando a vedere ciò che è disponibile, ciò che si è compreso, ciò che è verosimile nella situazione di ciascuno nostra azienda. Il problema si pone per le grandi aziende, perché sono sicuramente le grandi aziende quelle che pilotano il gioco dell'IT, come sempre, perché introducono i nuovi modelli, i nuovi processi. Chi introduce queste cose sono sempre le aziende globali, per esempio, ma coinvolge molto direttamente anche le piccole aziende e, non mi stancherò mai di chiamarle, micro aziende